Gente che saluta solo con i guanti, qua non si può tacere, deve andare avanti, provare per vedere quante sono le menti che parlano la buonanotte di allineamenti. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti e benvenuti alle buonanotte di allineamenti. Qui è Gas che vi parla e spero che sia stato un buon weekend. Questa settimana entreremo in un nuovo mondo che è ispirato a un nuovo mendo. Infatti tutto nasce da una conversazione che ho avuto questa mattina con il nostro caro vecchio amico Mendo, che saluto come sempre. Che anche quando è in Brasile è sempre qui con noi ad allineamenti. Vabbè, Mendo oggi mi raccontava di sue disavventure dal dentista in Brasile, perché naturalmente il dente del giudizio quando li deve uscire a uno come a Mendo se non come entra in Brasile, e da chi deve andare se non da un dentista che è uno dei peggiori dentisti di San Paolo, e quindi farsi operare per 2 ore, sbrodolare tutte le gengive, tagliare, farsi mettere i punti e avere ancora i denti del giudizio. Grande Mendo. E così alla fine, rischiando di morire dissanguato, è dovuto andare dal miglior dentista di tutto il Brasile e finalmente è riuscito a togliersi 2 denti del giudizio. Vabbè, ma questo era soltanto un collegamento al nostro viaggio di questa settimana, perché il nostro viaggio di questa settimana parlerà del Giappone in cui andrò ad aprile a scoprirlo, e mi sto preparando grazie a Mendo, come vi dicevo, perché durante il mio compleanno dei 27 o dei 28 anni, no, 27 che ho compiuto quest'anno, sì, per i miei 27 anni il mio amico Mendo mi ha regalato un libro, 101 storie zen. E ora sono proprio qui a entrare in quello che potrebbe essere la filosofia per eccellenza del Giappone, lo zen. Come tutti sappiamo, gli orientali sono sempre più attenti all'essere che all'agire, quello che abbiamo fatto, e hanno il massimo rispetto per tutti gli uomini che riescono a scoprire veramente chi sono nella loro essenza. Lo Zen potrebbe essere definito come l'arte e il proposito interiore dell'Oriente, uno speciale insegnamento senza scritture, al di là delle parole e delle lettere, una ricerca dell'essenza spirituale, una ricerca dell'uomo che vede direttamente la sua natura, cercare di raggiungere l'illuminazione. Andremo a capire, a cercare di capire che cos'è lo Zen. Andremo a leggere le sue 101 storie e capiremo che lo Zen ha molti significati, ma nessuno del tutto definibile. E se sono definiti questi messaggi, di sicuro non sono zen, perché lo spirito zen ha finito col significare non soltanto la pace e la comprensione, ma la devozione all'arte, al lavoro, al dispiegarsi dell'appagamento, all'intuito, all'espressione della bellezza innata, al fascino dell'inefferrabile, dell'incompletezza, alla serenità con cui si gode la vita in beata tranquillità. Questo è lo spirito zen che andremo a vedere nelle sue 101 storie in questa settimana. Ma ora, prima, vi lascio con una canzone, come sempre, di Cesare Cremonini, una canzone che mi rilassa sempre molto, e se con lo zen bisogna essere beati e tranquilli, in serenità, io penso che Cesare Cremonini con Marmellata 25 ci farà ben rilassare e ben preparare ai racconti che seguiranno.